Quasi sera, e tu eri con me, eravamo seduti accanto al mare, quasi sera, e là sopra la sabbia c'erano ancora i segni del nostro amore. Ricordo che tu mi parlavi, io stavo guardando una vela passare. Era gonfia di vento, era l'ultima vela, era ormai quasi sera, quasi sera. E non ricordo altro, né la voce che avevi, né il nome che avevi. Quasi sera, e poi non t'ho più vista, non ho mai più saputo di te, della tua vita. Ricordo di noi soprattutto la vela che a un tratto sfiorò il nostro amore. Era bianca e dopo un momento io la stavo cercando, ma non c'era che il vento.